si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. Prima di tutto rilanciamo i contatti per tenerci aggiornati. Si può fare Radio 24, la pagina Facebook, si può fare 24. Siamo anche su Twitter, dove durante la settimana insomma vi punzecchiamo un po' con le nostre buone notizie. E cominciamo subito a raccontarne qualcuna, così per entrare un po' nel vivo. Parliamo di mobilità. A Bari, Trofeo Tartaruga, vince di nuovo la bicicletta. Il Trofeo Tartaruga è un'iniziativa lanciata da Lega Ambiente, in varie città lo fanno ogni anno, mettono in gara un'auto, uno scooter, una bicicletta e un autobus e vedono in un tragitto cittadino chi è che arriva per primo e chi è che arriva per ultimo. Trofeo Tartaruga, ma in realtà vince la bici perché muovendosi in città riesce ad essere il mezzo migliore. Prima la bici, e viva la bici! E poi andiamo a Londra per un'altra notizia che riguarda le biciclette, perché mentre noi qua in Italia stiamo ancora parlando di piste ciclabili sì, piste ciclabili no, grandi e piccole, a Londra arrivano le autostrade per la bicicletta. Il sindaco della capitale britannica, Boris Johnson, leggo, ha presentato infatti un ambizioso piano per la ciclabilità urbana con l'obiettivo di creare vere e proprie autostrade, avete capito bene, per le biciclette, in modo da incentivare bla bla bla l'uso per ridurre il traffico e l'inquinamento. Il progetto prevede la creazione di circa 15 miglia di corsie per le bici perfettamente separate e protette dalle auto, una cosa che in Olanda c'è già. Oh, già che siamo in tema di mobilità, questa notizia riguarda Milano e per i precari e per i disoccupati c'è la possibilità di fare l'abbonamento ai mezzi pubblici gratuitamente. Insomma, di incentivi così ce ne sono diversi in tutte le città, insomma in molte città italiane. Noi mano a mano che li vediamo ve li diamo. Il comune ha deciso, in questo caso a Milano, una grande città, quindi è giusto dirlo, di rilanciare questa iniziativa. Si può andare sul sito dell'ATM o del comune, si trovano i bandi. E insomma si può fare domanda per avere almeno così i mezzi pubblici se uno è un precario o non ha lavoro. Bene, queste erano le notizie per iniziare. Vi ricordo anche che potete chiamarci sulla nostra segreteria telefonica per lasciare le vostre buone notizie, le vostre ricette per salvare l'Italia in un minuto, 828 1212. Adesso andiamo ad iniziare con una storia che ci porta in Sicilia. Voglio dare indietro il mio stipendio, voglio lavorare gratis. È l'incredibile storia del preside della facoltà di ingegneria di Enna, Giovanni Tesoriere. Buongiorno, intanto lo salutiamo. Buongiorno. Così hanno titolato i giornali. Perché ritiene di non dover essere pagato per una consulenza in più rispetto a quello che è il suo lavoro, già evidentemente ben pagato. Però questo in Italia non è facile, non è possibile. È così, Tesoriere? Sì, è proprio così. Cioè, una cosa che di questi tempi è incredibile, no? Perché va di moda adesso parlare di ridare lo stipendio, i grillini lo fanno, lo hanno proposto a livello politico, poi vedremo in Parlamento come riusciranno a farlo. Però lei forse è tra i primi, lavorando nelle consulenze pubbliche, che fa questa cosa, fa questa proposta. Beh, guardi, le dico subito, proprio con due battute. Io ho vinto una selezione per una consulenza specifica nel settore dei trasporti alla regione. Una consulenza molto ben pagata, stiamo parlando di circa 70.000 euro lordi all'anno per un impegno non eccessivo, però qualificato. Questa consulenza l'ho avuta assegnata un paio di anni fa, sì. Ma soltanto dopo due anni la regione mi ha chiamato per firmare il contratto. E siccome la situazione economica generale del paese e anche un po' il clima che si è creato nel paese in termini di spending review, in termini, sì. Mi mi ha motivato a chiedere di poter convertire questi soldi, lavorando appunto a titolo gratuito, per altrettanto borse di studio a favore degli studenti, a favore dei miei studenti, che vedo, mi creda, in questo momento avere veramente gravissime difficoltà per poter andare avanti con gli studi, e molti dei quali, molti studenti proprio delle famiglie più bisognose, sono costretti, benché ne avrebbero capacità e diritto, sono costretti a ritirarsi. Allora, visto il momento, certo, sappiamo insomma l'importanza delle borse di studio. Mi piaceva questo dare questo segnale di condivisione della difficoltà di questi giovani, devolvendo a loro. Adesso, prima di dirci poi come andrà a finire poi questa vicenda, anche se non lo può sapere nessuno, però a che punto siamo, mi dice lei però quanto, se me lo vuol dire, quanto guadagna da preside della facoltà di ingegneria, così uno capisce anche perché lei sta rinunciando, o meno. Guardi, chiede di rinunciare a 70.000 euro ordinario, con indennità e tutto arrivo a 120.000 euro lordi l'anno. Beh, capite insomma che è un bello stipendio. Quindi lei giustamente dice: io, per senso di responsabilità, in ossequio alla spending review, so di vivere in una regione complessa come quella della Sicilia, guadagno bene, non li voglio sti soldi, lo faccio gratis, è un lavoro qualificato, ma che lei non farà. L'avessi mai detto. E che è successo? Casotto. È successo di tutto. Mi sono attirato contro alcuni che mi dicevano: ecco, sono diventati tutti grillini, anche i baroni universitari. Mi sono attirato contro gli altri consulenti che nel frattempo firmavano i contratti, perché erano sei in questi contratti, e i quali erano preoccupati. Sì, poi la cosa sarebbe ricaduta anche su di loro. Sarebbe ricaduta. Gli unici, devo dire, che sono venuti nella mia stanza, devo dire anche con grande commozione, sono stati gli studenti. Meno male. Per esempio, ho trovato tutti, si sono rivoltati contro quella che mi era sembrata un'idea anche, se vogliamo, carina, non volevo, ma è venuta fuori proprio perché la regione mi ha detto: dice, no, tu i soldi te li devi prendere, se vuoi li regali tu. Però non è così semplice, perché col sistema di tassazione che abbiamo, sì, lei in Italia, rischierebbe di pagare le tasse, ecco, sì, diventa praticamente impossibile. Io va bene darli in beneficenza, però non è che vorrei pagarci le tasse, e su questo ha ragione. Ci fermiamo un secondo perché dobbiamo dare il traffico, poi appunto torniamo e ci dirà come lei prevede in qualche modo che possa andare a finire questa questione qua. Ripetiamo, il preside della facoltà di ingegneria di Enna, che vuole rinunciare al suo stipendio per una consulenza, 70.000 euro, perché dice: a me non servono, dateli agli studenti. Ma questo, a quanto sappiamo adesso, non si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta con Giovanni Tesoriere, preside di ingegneria a Enna, e ci stava dicendo che la regione le ha fatto capire che non è possibile rinunciare a questo stipendio per darlo agli studenti. Le consigliano di devolvere lei in beneficenza, però ci sono problemi fiscali. È chiusa qua o lei sta cercando di andare avanti e di ottenere questa possibilità? Guardi, io ho scritto ufficialmente alla Regione e mi è stato risposto solo ufficiosamente. Chiedo una risposta ufficiale, perché mi sembra veramente che si può creare un fondo per gli studenti, lo si può trasferire al fondo per il diritto allo studio. Ci sono mille modi per... a me 70.000 euro dati, devoluti agli studenti, significa poter fare studiare 30 studenti nella mia università. Ditemi se non è poco. No, è certo che non è poco, anzi. Farò di tutto, perché secondo me, a costo di portare tutti i tavoli possibili, compreso quello del Presidente. Quindi lei insomma non si ferma, lei va avanti. No, non mi fermo, vado avanti, ho vinto una selezione, ho il diritto a quel posto e ho a questo punto anche il diritto di chiedere che i miei studenti possano beneficiare di quelle risorse che io vorrei mettergli a disposizione. Si può usare il metodo usato dai grillini, per esempio proprio in Sicilia, a Palermo, che hanno creato un fondo per il microcredito, qua il fondo sarebbe per le borse di studio, un fondo della regione al quale vengono devoluti i loro stipendi. La stessa cosa potrebbe anche fare lei, cioè in fondo, ma il suo, diciamo, alter ego, chi è il suo referente? La regione? E il mio referente è il direttore della programmazione della regione. Quindi Crocetta, che fa capo di tutto, dovrebbe essere sensibile, visto che comunque in maggioranza ha i grillini che lo sostengono e che questa cosa la stanno facendo. Facciamo un appello. Stanno tentando di farla, perché che io sappia ancora non l'hanno del tutto risolta. In questo momento hanno rinunciato alle somme, ma ancora non sono riuscite a rendere operativo il fondo. No, certo, hanno creato il fondo, poi piano piano ancora, ci vorranno mesi. Ancora non, esatto, c'è ancora un regolamento che devono redigere, quindi ancora hanno un po' di problemi. Vabbè. È più facile prendere che dare, ho capito. Questo l'abbiamo capito. Sarà strano. Insomma, che dire, Giovanni Tesoriere, grazie intanto per essere stato con noi, per averci grazie raccontato questa storia. In bocca al lupo a lei che vuole cercare di lavorare gratis una volta tanto e non ci sarebbe nulla di male. Staremo a vedere, vedremo come andrà a finire, ci risentiremo più avanti. Grazie intanto. Sì, grazie. Sfruttamento 99 Poste e Bisca, perché se abbiamo appena sentito la storia del preside di ingegneria tesoriere che non vuole essere pagato per il suo doppio incarico, la pratica di chiedere lavoro gratuito e quindi una forma di sfruttamento è purtroppo molto diffusa. L'ultimo caso che ha fatto discutere è quello di Bologna, dove il bando addirittura del comune chiede ai giovani architetti di partecipare a questo bando, di fare dei progetti, però senza neanche il rimborso spese. E ha fatto infuriare l'ordine degli architetti di Bologna. Di questo tema si occupano gli animatori della pagina Facebook No Free Jobs e noi abbiamo convocato Cristina Simone, che buongiorno. Ciao a tutti. Che nella vita si occupa di social media come freelance e che è appunto una delle animatrici di questa pagina. Tu sei un freelance, adesso un lavoro ce l'hai, però sì, ti è capitato anche a te di sentirti chiedere lavoro gratis? No, mi capita tuttora, mi scrivono via mail chiedendomi se voglio scrivere o insomma se voglio svolgere un lavoro gratuitamente, quindi ancora adesso, nonostante io sia una fervente sostenitrice del movimento, continuano a scrivermi e chiamarmi. Cioè non è che ti riconoscono e sanno no, che sei... No, no. Dovresti andare in giro con un cartello appeso al collo, no free jobs, e così. No, esatto, anche un po'... Cioè, nel senso, io mi informerei prima di scrivere ad una persona, no? Quindi, forse sì. Ma viene chiesto... Cioè, spesso sugli annunci si legge in forme un po' ambigue, no? Adesso magari leggiamo anche qualcuno sulla vostra pagina. Ma anche a voce, cioè, tu fai un colloquio e ti dicono, guarda, però... Guarda, a voce personalmente no, non mi è mai capitato, però via email sì, capita, ma ci scrivono anche in tanti sulla pagina dicendo che hanno ricevuto email di lavorare gratuitamente, cioè senza nessuna senza proprio nessun limite. Tra l'altro un altro caso che c'era stato recentemente aveva coinvolto anche il sindaco di Parma, Pizzarotti, che aveva detto che cercava un informatico, non ho capito bene per far che cosa. Uno sviluppatore, sì, infatti avevamo anche gratis sulla pagina di No Free Jobs il suo annuncio, ma lui era stato proprio... prese davvero mai parole da tantissimi. Perché la scusante che viene posta in questi casi è che ti do visibilità, sì, partecipi a un progetto. Che cosa aveva detto in questo caso Pizzarotti? Allora lui, guarda, ce l'ho proprio qua davanti a me, diceva c'è uno sviluppatore bla bla bla che vorrebbe collaborare con noi per sviluppare alcune idee che vorremmo portare avanti. Progetti semplici, poche pagine, ma efficaci. Anche da remoto, ovviamente in modo gratuito. Un modo in più per partecipare. E quindi lui aveva, niente, aveva fatto affidamento a questa voglia di partecipare, di mettersi in gioco, ma... Vabbè, partecipare, però insomma, è un po' come la storia del concorso per il bando, che dicevamo prima, al comune di Bologna per ristrutturare non so più che area, che zona della città, nella quale non si prevede neanche un rimborso spese. Allora, gli architetti hanno detto, può sembrare una cosa un po' di puzza sotto il naso, in realtà loro dicono, per fare un progetto per bene ci vuole del tempo, del lavoro, quindi almeno le spese, perché poi vi prendete il progetto gratuitamente e va bene, però almeno rimborsateci le spese. Niente, neanche questo. Vogliamo leggere qualcosa sulla vostra pagina per capire i casi più clamorosi, più strani? Io ce l'ho allora qua. Ti posso dire uno che mi è arrivato ultimamente via email, sempre sulla sì. pagina, che dice: attualmente stiamo lavorando per introdurre delle ultime features e programmiamo di uscire live a livello mondiale nelle prossime 2 settimane. Ti contatto perché volevo chiederti se ti potesse interessare entrare a far parte del nostro team ed unirti a questa avventura. Non abbiamo a disposizione fondi, quindi non possiamo offrire stipendi. Offriamo quote della società e cerchiamo soprattutto persone che vogliano condividere con noi un sogno. Ecco, questo concetto del condividere il sogno, no? Che, cioè, diciamo, perché è vero che in alcuni casi, se io e te decidiamo di aprire un'impresa o di gettarci in un'avventura imprenditoriale, è chiaro che lavoreremo per una parte del nostro tempo gratuitamente, no? Sì. Però sì, altra cosa, poi andare a chiedere lavoro, magari startup che sono lì da anni, e quindi diventa un po' una maschera. Sì, no, infatti condivido, perché adesso dietro il volto della startup ci sono tante persone che magari si fanno gioco proprio del fatto che sono una startup, quindi ovviamente non hanno tanti fondi, e però effettivamente chiedono lavoro gratuitamente. Allora io sono d'accordo se magari 2 persone si mettono insieme, hanno un sogno, cercano di costruirlo, cioè prendono del tempo libero per dedicarlo alla costruzione del loro sogno. Però poi chiedere ad un'altra persona, un freelance o comunque qualsiasi altra persona, un professionista, di lavorare gratis, secondo me è sbagliato, nel senso che qualsiasi lavoro deve essere retribuito. Qualche altro post sulla pagina? Adesso sto guardando, però non riesco a visualizzare. Ce ne sono tantissimi. Sì? Ultimamente avevo lanciato una domanda di raccontare le sì? migliori scuse che le persone insomma aggiungevano per non pagare. E ti posso leggere qualcosa che ti è arrivato. Allora, per lei è un'esperienza che fa curriculum, oppure non ti paghiamo perché è solo il numero 0 di un giornale, poi se partirà vedremo. Siamo una startup, non possiamo permetterci certe spese. Non ti paghiamo perché ti offriamo visibilità. Ah, anche questa è bellissima, visibilità, e così uno lavora gratuitamente. Sì, beh, non è che si può campare di visibilità, insomma. No, infatti, poi tutte queste cose possono andare bene per un periodo, sicuramente, però ripetiamo, ci sono aziende che forse mascherano dietro a queste offerte la ricerca di lavoro. Cioè, diciamo, lavorare gratis non si può fare. No, non si può fare perché cioè, se noi andiamo a comprare, non so, la frutta al mercato, lo dobbiamo pagare. Dici, ma guarda, io vado in giro col sacchetto del tuo negozio, io ti offro visibilità, dammi la frutta gratis. No, non funziona. Questa sarebbe potrebbe... bellissimo. Proviamo, anche proviamo. Anche pagare l'affitto con la visibilità del proprietario dell'appartamento, ma insomma, a me non mi è mai successo fino ad ora. Comunque, insomma, la storia dei grandi consulenti, ricercati anche dai comuni, dimostra che probabilmente non c'è una fase nella propria vita professionale nella quale si smette di sentirci chiedere lavoro gratis, perché evidentemente guarda, è un destino che ci aspetta anche per il futuro. Però noi andiamo sulla pagina Facebook No Free Jobs e ci ridiamo sopra. Sì, ci ridiamo sopra e cerchiamo anche di, insomma, di denunciare far questa cosa. Di denunciare, ma anche di far capire che è proprio sbagliato accettare dei lavori gratuiti. E va bene, grazie. Allora, Cristina Simone, una delle animatrici della pagina No Free Jobs su Facebook, se volete andarvi a vedere che cosa c'è postato sopra, sono già 4.181 i mi piace in questo momento. Grazie. Grazie a voi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Io vivere così, col sole in fronte, e felice canto, beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Ah, oggi amo ardentemente con ruscello impertinente menestrello dell'amore.